Che buffo! Che facendo c'è? Caracciuro! Vabbè! Chi c'è? Nessuno c'è! Ci sono io e tu! Tu e io e tu! E non c'è Luca del Monte! Quello deve essere ancora mangiando questa la pasta al forno! Perché è rimasto un po' da ieri notte. Ah, così è. Io la mangio poco, il ciubizzino. E allora, se fai di mano a forse passa al forno. E Chiddu, non si è sentito. Mi ha mandato un coso che non si legge nulla. Per i baracchini, per la 27. Pure a te l'ha mandato. No, cos'è che ha mandato? A me non me l'ha mandato niente. Cos'è che ti ha mandato? Aspetta che te lo mando su WhatsApp. Manda. Aspetta. Mi te l'ho mandato. Rettro Paolo Potrellesse. CB, Marachino Radio, amico CB, il gruppo ufficiale. Poi per Cristo, per tutti voi, c'è una novità a Cuscennisi. Da so qua Cuscennisi, canta. Secondo il nuovo PNRF approvato e pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2018, canali CB partono da 26.175 e finiscono a 27.500. Punto. Guardare qui sotto, chi non ci crede può aprire il documento ufficiale al link qui sotto del sito della Gazzetta Ufficiale. Grazie per l'attenzione. E poi c'è una cartella sotto che è un minuto che non riesce a vedere cosa c'è scritto. Ma hai tu compreso là cosa hai scritto? Praticamente che la 27 deve usare questo canale così, dal 26.175 sino al 27.500 punto, così è. Se avevi scritto così, è così, già è fatto, già la sto leggendo, già è così. Lui l'ha mandato, e quando l'ha mandato? Ieri? No, stamattina non è lui, è il suo Paolo Potrellesse si chiama, un CB, c'è la fotografia. Ma chi ci va a essere? Deve essere un poco avvariato, deve essere scrivere queste cose. No, c'è scritto, se vuoi controllare basta guardare su Gazzetta Ufficiale. Mi pare che vedi scritto, e ci vedi scritto. Aveva una giocata di migliaia di computer, se non l'aveva mai dato. Io l'ho aspetto poco fa, avrei saputo, l'avrei guardato anch'io, a vedere un po'. Lo guardiamo, fino oggi o domani, ma lo guardiamo a vedere un po' cosa c'è tutto scritto anche qui in questo piccolo, che in questa cartella piccola, che è tutta scritta a minuto e non si comprende un accidente. Infatti è troppo piccolo scritto, vai su www.gazzettaufficiale.com e ti esce questa cartella, capito? E allora come ti vanno usci? 19 ottobre 2018, canali CB, infatti. Già me lo leggo bene, va. Io adesso l'ho ingrandito qua, riesci a vedere cosa dice. Bisogna numare, io che ho scritto ufficio 1, Ministero Finanze, Difesa, poi dici, non si dice, Reti, si legge sbiadito. Riesce a vedere, cosa dice di no, che allora 2004/171 CX LAB 1223 10 B3 non se ne comprende in idea, non ne comprende 73 23 riesce a vedere qua 2004 CT no, hai pure di video che non si compra applicazioni, carta, non si compra nulla, non lo faccio. A tutti sì, certo, tanto li sappiamo noi, siamo sentiti loro che ho detto, ci ha mandato a lui, così che siamo sentiti sul canale, così che... non ci interessa, capito? Siamo sempre in regola noi. Ah, ma già non me ne ha fatti nulla, pure i suoi bianchi. Quando una giugana l'attacco, quando non una giugana non attacco. Vabbè, sei così, sono io, ma te. Cazzo, non per più nessuno cosa. E poi, a cosa l'ha messa a fare che a Marco fa vedere così chissà cartella che fa Giorgio, la dobbiamo far vedere più chiara, più immaturo, come sta scritto l'altra cosa, e poi manda chissà pure a vedere proprio se si riesce a comprendere gli accidenti, capito? Così è che mi comprende, boh. E allora, ma è una vignetta, un telefonino, dici chi sei a visita da un ginecologo e gli dice il ginecologo signora è da molto che non ha rapporti sessuali e gli dà risponde perché e il ginecologo gli dice guardi lo schermo e allora avete disegnato lo schermo la ragnatella un ragno e vedo un po' evidentemente chi sa da candela no da candela no ma è dalla ditta perché è il video la ditta guardi lo schermo e bella ragnatella proprio la ragnatella con un ragno tanto se ne intendi una ed è giovane a buro me biondona a coscia all'aria una barzelletta una vignetta me bene lo ginecologo l'infermiera e chi da cucca da coscia a bici si vede il monitor a chi della telefoni la ecografia cosa le fai la riposi usci e chi da bici la ragnatella ah ma è da finito ma la fotografia è da me? Beh, la fotografia del ginecologo, dell'infermiera e di chi c'ha il cucca dai lunettino dell'ospedale a cui c'ha l'aria e si vede il monitor del computer, no? Attento, uffo! Ehi, io ti ho visto dal ginecologo, tu eri! Ehi, io! E te dirai questa signora, che il ginecologo l'ha detto, è la morta senza avere rapporti sessuali, e da perché? E chi tu gli dici? Guardi lo schermo, e allora sapevi lo schermo, la ragnatella con un ragno. Vai Gianmarì, mi ha rivisto. Ciao Lu, buonasera. Ah, Gio Mari, tu subito devi pulire i puntini sulla I, hai visto? Bubu, racconti Zemmo. Ma è da 7 mesi queste cose, capito? Chissà che tu ne combini di Edo, buru, capito? Così che è 7 mesi, Edo, risi, capito? Guarda che nel telefonino c'è questo, buru. Io non l'ho mai visto così, Io non l'ho mai visto così. Puoi fare tu, vero lui? Ma lui che ha mai detto, allora, va, già per la giudizia, va, sta di chi, Fulgenia, questa è la cassa. Ma no, che bella vista con i bozzoli, ovi, gattarani, vermicelli. Stasera vi offro la pizza. E dove? Su questo bus, la pizza a tranci, ed è condita con gattarani, brutti, ovi, a fine fuoco, ya. Fucci. Fatti ne manda un pezzo a te pure. No, ma quelli sono tutti così che si mangiano. Chi si ginesi, magari è la pizza dei ginesi. Può essere anche, perché quelli sono i fasticcioni, capito? E allora, pucaccione. Per carità. Beh, visto che il distrito ci ho mandato io, Rabioru, visto l'hai, grazie. Lui Rabioru. E cosa me l'hai mandato? Domenica. Domenica non vedi in casa, ma non lo so, poi ci guarda a vedere. Guarda, non ce l'hai mai il telefonino, guarda. Ehi, antenne chissà, in mare si soffende lo bagno, Edo si avvicina, chissà, e gli dici, che fai tutta sola, e gli dà piccio. Ah, c'è. Aspetta, bene, dici così. C'è scritto il telefonino per pure la fotografia, gli dà nulla e gli si è avvicinato. E l'ha detto, che fai? E gli dà la riposo così. Ehi, Luca. 2 secondi arrivo, Ehi, hai visto quel tipo che ha salvato quella donna che stava affogando dentro la macchina? In continente. L'ha salvata quell'algherese. Luca si chiama. Luca è la donna salvata. Salvata dall'auto. Luca è la donna salvata dall'auto alla gatta, ora sta bene, non finiva più di ringraziarmi. A Careggio, però vive lì in continente e l'ha salvata, meno male. Un'opera di bene ha fatto. Mi per la fotografia la macchina è proprio sotto, sosteva, mi chiccio si è cuccio e mi ha tirata da 30 la macchina. Se noi era fughetti, era morta. Mi pare che era giù. Ciao, hai visto a Roma cosa ha fatto a Rimani? Hai visto tutti biancati a Ida? Tutto ghiaccio, già l'ha giù visto già. Ah, ma tutte le immagini, ghiaccio. Ah, carrate, è un'unica che è passata, l'ha fatto un poco disastro qua. Oh, è arruinato tutto, in Sicilia non l'hai visto, in Calabria, anche nel Cagliaritano. Tutte le verdure, tutte pratiche, di basta, tutto, hai visto quei ragazzi? e ha riformato una cooperativa, si sono posti in pari a coltivare la terra, tutto raccolto da buttare, da dare a mangiare i buchi, tutto rubattato, tutto frasegato, chi seva, la ruinata, ed erano come insegni, i poveracci, per carità, patato, gugumari, zucchini, le cose, tutto la ruinata, tutta roba da dare ai maiali. Danno un bel affatto, ed è fermi sempre, ogni tanto a una parte all'altra prende un bel disastro, ma un bel però è, per carità, e anche se un cagliare salvo mi ha fatto un bel giro, ma chi ce l'ha fatta a Roma, grazie, era da un bel che non vedeva una cosa del genere, anzi non l'hanno vista mai questi. Lo so, quando vado il ceppo di curioso, perché poi succedono svuotamenti di strade, saltare i barassi, a chi in questa maniera si crea nel sottoterra dei fiumi, leva si buca tutto, ed è un casotto, pericoloso quando fate così. Qui ci sono tutti gli esperimenti maledetti che ci offendono nell'aria, ci arruinano le stagioni, l'uomo le arruinano le stagioni, non ve ne so più stagioni. Con tutti questi esperimenti di capolo che fate. Luca se ne ha dato a... il PMR, eccomi qua. Facendo già! Ma cosa sei diventato? Un grillo, brinca brinca! Lo sai che portatile lo posso spostare, invece, questo qua no, rimane qua. Già lo so, vabbè, però non diventare grilletto. Nonno! Gio Mari, com'è in campagna? Tutto vuoto? Guarda, in campagna da parte di Maria ha messo questi melograni che li vedi sono uno spettacolo, sono buonissimi, tu vedi i chicchi dentro sono dolci, dolci, dolci. Tempo suo, dopo la fama domenica, lì a ottava era pieno, sono due o tre alberi, sono pieno, con ognuno è uno spettacolo. No, io ne ho pochi quest'anno, perché li avevo portati e li abbassati, capito? Mi era rimasto un alberetto solo, ma piccolino all'albero, ce ne saranno 8-9, non di più, capito? Già è abbastanza, è grosso, grosso, capito? Però dopo la domenica lì, cazzo, siamo tre alberi, ma sa, hai fasciatura, hai fasciatura, siamo con quelli li bratti di là, poi, da canto di buccia, li puoi immaginare, e l'hai eliminato un poco, ci avevo mangiato domenica. Questi sono proprio belli, grandi, grandi, grandi, guarda, non sacco, rossi, rossi, e dolci, dolci, perché cacchi niente, due sole, insomma, mandarini ce ne sono un bel. Ma i mandarini lo stesso sono, diciamo, non ce la fai a spaccarlo con... ti viene male con le dita là, a spaccarlo, la buccia è un po' grossetta, ma una volta che spacchi un pezzettino già riesci a spaccarlo, ma sono una meraviglia, guarda, succosi, buoni, buoni, buoni, infatti mamma ne mangi uno. A chi è finita la buccia di attaccata un bel, così so Luca. Chi se di campagna sono minuti, ma sono belli zucciosi, e la buccia è fini fini, ma è un bel attaccata. Ma lo grado, ma è tutto buono questa. A me non c'è bisogno. Ma è tutta buona la mela granata. È già cotta, mi dava che una gruda, ma la maggior parte è cotta, per cui non ho fatto anche, se no va, come sarò un mese, un mese dai, si crema da voi, si guasta, se non la fai. Già lo so, viaggi lunghi, lui, ne ho anche nel cestino dietro. No, l'ho mangiata a mezzogiorno, poi se la mangiata, io mangiavo tu. L'uva, ogni abubione, l'uva Italia, mezzo caduto, dolce, dolce, ui, oh yeah! Sì, non andavo a un secco cascette da Craio di Perù, sul treno, grazie, chi vive? Cazzo, bella, ma bella veramente, e poi dolce pensata. Sì, ti dico che è buona veramente, ma per me è la roba buttata in frigo, noi la prendiamo in frigorifero, a chi dura, capisci il frigorifero, se la assicura si guasta subito. Ma l'uva! E allora? Se c'è freschetto già non si guasta, se la c'è nella cassetta, in terra è un luogo, freddo, già dura anche nella cassettina. Ma il frigorifero dura sempre di più, capisci? Da poi magari mezz'ora prima di mangiarla nella casa, il budrone, la lavi e te la mangi, capito? Un poco di mia, rimane ci mangiamo la mela accosta, mi dà un poco di mela, l'accosta, con ogni mela è un altro attacco. Buona, a me piace un mega di cotta in forno. Già mi piace pure a me. Vabbè. Ma ti mangiato una bruna di chi di rui rotondi, tutta che la valla di canto della caduta. Per forza non vai denti, buoni tu. L'ho fatta a pezzi, a succiatura, sai, manco il calaggio. Ciao Dore. Buonasera Gio Marino. Non fare denti buoni, Edu, per masticare. Attaggio, vivo. Non fare denti, Graziano, a masticare, lavatemi tu. Buonasera a te. Graziano, cazzo, ce l'ha pigliata a Gattosa e sta bene di non fare denti. Salvo che non piaccia masticata a Rosa, da poi se l'ha mangiata. E allora, pulinaggio 4 denti, no, ne 8, 4, 6 naggio, ma uriano naggio i denti, allora è poco il trigno, è poco il d'arancia, già tranciano ma stessi già. Hai tesi tu? Hai inteso. Ciao Luca! E oggi inteso, sì. Ciao sto, hai visto, così, bisogna trancia. Andiamo. Te lo grazie a te, faccio una dentiera, te lo masticaggi con le mani, poi te lo poni la mano e te lo passi in bocca. E allora, già tagliarlo a te, se non ti preoccupare. E a voglia, detto no 20, già si farà tutto. Hai compreso, dai. Ah, ci ho compreso. Andiamo. E beh, Tore, e oggi cosa hai combinato? Bella beh. Vieni, che stasera combattendo con un garrello. Bella, ginocchi. Se non mi avanzano, devo andare a revisione, devo andare. E non mi funzionavano le luci per nulla. E così aveva un fucile bruciato. Io li spruzzavo anche se era parcheggiato, ogni tanto un po' di spray dove ci infili, dove c'è la spina di lì, e poi lo tieni hamburgato con una busta di nylon per non entrarci l'umidità. Però io ogni paio di mesi cambiavo la busta, lo levavo e gli spruzzavo il CRC dentro la spina e dove c'è la placchetta di lì. E poi anche alle lampadine dietro, ne levavo il vetrino e spruzzavo tutto dentro bene il CRC. E funzionava sempre, tutte le volte l'attaccavo. Era un coso di falso contatto che me l'ha bruciato il fusibile. Andava già a posto tutto. È pronto per andare a revisione domani. E dopo vai alla motorizzazione? Solo lì la fanno la revisione a carrelli delle barche, solo lì. Lo so, l'ho fatta anche io lì quando avevo cambiato dalla duna alla 1. Avevo fatto il gancio treno nuovo. Lì in via San Pietro all'angolo c'era un meccanico che gli piazzava, me l'aveva piazzato quello, il gancio treno nuovo, alla 1. E poi sono andato alla motorizzazione a fare la revisione. E chi ci ha controllato? Le frecce, mi ha detto, tiri la prima, anche la nella seconda e freni. E già ha funzionato tutto. No, a me deve fare solo la revisione, controllare le luci e i freni e basta. E del carrello, non deve controllare altro. E il numero del telaio del carrello. Sì, però si controlla, a me mi ha controllato il movimento, frenando e poi la frenata. Se frena bene il carrello, anche quello si controlla. Se il carrello, tu quando freni la macchina, si inchioda il carrello. Il freno a mano te lo tira lui. E ti dice, cammini un po'. Ti dice, per vedere se frena. No, pure quello mi aveva fatto, però mi ha controllato anche il freno che è a pistone del carrello. Tu quando sei libero camminando che freni, e il carrello spinge in avanti e si rallenta, perché nel pistone lì c'è il freno, comanda i freni, capito? Controlla anche quel pistone. No, a me quando l'ho fatto io me l'ha fatto fare tiri, avesse strisciavano le ruote, boh, basta, giù rubisci. Ehi, però il pistone, il freno che c'è, se lo controlla, non quello a mano, ma anche quello a pistone, quando stai camminando, che tu rallenti, il carrello tende a venire in avanti e rallenta, capito? Perché se rallenti tu rallenta anche il carrello. Ehi, lo so, però a vuoto il carrello non lo fa, hai compreso? A vuoto non lo fa, lo fa quando c'è il carico sopra. No, da me lo fa sia a carico che scarico, me lo faceva sempre, a chi la mettavo spesso a vedere, no? Quando scendevo dalla campagna alla baratta, camminavo poi, rallentavo e vedevo che il carrello più rallentava allo stesso tempo insieme alla macchina. E se viene avanti, no, spinge il pistoncino e ti rallenta. Lo so, ma così non ce la fai, bisogna che ci sia un peso in quel carrello che ho io per frenare con il pistone, hai capito? Se va a retromarcia allora sì che te lo frena. Boh, il mio era un LB, il carrello, l'avevo preso lì in viale Porto Torre, centro vacanze, avevo pagato 1.200.000 lire, costava. Sì, ho pagato 1.500.000 euro, un carrello, ho pagato tant'anni fa, nel 90, dicevo di Zelli. E quindi se torni indietro frena dietro, ti si frena il carrello. No, se tornavo indietro non mi si frenava a me, solo in avanti, con le ruote, no, camminando in avanti. Se tu frenavi con la macchina, lui si frenava, se tornavo indietro no, per tornare indietro, per bloccarlo, me ne scendevo e mettevo la staffetta che c'era e poi va a retromarcia, capito? Anch'io ce l'ho quello lì, la staffetta, infatti la staffetta entra solo se il carrello si solleva la staffetta sopra, a lato lo frena, però siccome così non funzionano, già lo sanno loro che non funzionano così, bisogna che sia pesante il carrello da me per funzionare. Guarda che io ce l'avevo una quarantina d'anni, era nuovo. Poi non lo stavo più usando, l'avevo preso per campagna, per quando mi facevo il campeggio. Poi però non lo stavo più usando, alle olive ci portavo ultimamente col carrello, quando raccoglievamo le olive. Però passino in un lampado così, il miraggio venduto a uno di Ussi, l'ho venduto. E giusto, si era badato, si era provato e si era pigliato. Gli ho attaccato la ruota e scorta, e quella l'avevo comprata a parte, 50.000 lire, me la metto ancora, nuova. Infatti, Infatti, no, io già so come me lo fanno fare la revisione, lo dico io. Avevo finita nel 2003, l'ultima l'avevo fatta, allora è tornata a casa e andavi, vabbè, importante che passi da bui. Vabbè, dai, che ci sono lasciati in altri in coso. Oh, riprende Gianmarie. Ehi, ma grazie, ma tu mai l'hai revisionato il carrello? Sì che l'ho revisionato, era tutto in regola. E non solo, quando l'ho venduto, sono dovuto andare alla motorizzazione e non lo sapevo, e ho visto. Oh, e ho dovuto fare un passamento quasi di 50 euro perché l'ho venduto a quello là, il passaggio di proprietà lì alla motorizzazione all'ACI. Ma tu che senti? Ma tu non l'hai mai buttato a revisionare, non so, penso che i carrelli minori non vengono revisionati, capito? Penso io, non lo gioco. Ma che non l'ho mai revisionato? Una macchina sì, ma lo carrello mai? Sì, quando andavo alla revisione della macchina portavo anche il carrello agganciato da Fiori, lì a Predaneta. Mi revisionavo la macchina e poi anche il carrello. E beh, se c'è il cacciotraino e c'è il carrello lo devi revisionare insieme alla macchina e al carrello. Però se tu esci nel libretto c'è scritto solo revisionata la macchina, però si fa un carrello attaccato alla macchina, ti caccia niente la polizia. E sempre, tutte le volte che ho fatto la revisione alla macchina lo portavo sempre. Ah, io non sapevo mai niente. Io non ho saputo mai niente che ci revisionava. Io quando buttava la macchina a revisione, cazzo, non mi direi che era un cazzo traino, non me ne sono mandato nulla mai, così che io non ho visto mai niente. A base di revisionare a febbraio. Calduato il piccolo appuntamento, dico, ma a che carrello devo revisionare? Vediamo un po' se mi visiti. Io a Fiori gliel'avevo detto quando l'ho fatta da lui la revisione. Io ho detto, ascolti, siccome io ho il carrello in campagna, ogni tanto lo uso, non è che sono sempre col carrello, lo devo revisionare se va la macchina, beh certo che lo devo revisionare. E quando viene alla revisione attacca il carrello e lo revisioniamo anche il carrello. E beh, per forza. A me un cazzo treno quando mi l'hanno imbiattato, ho dovuto fare la revisione alla macchina mia, la macchina era nuova, e ho dovuto fare la revisione alla macchina per fare l'abbinamento del gancio treno. Poi una volta che ho preso il carrello ho dovuto rifare un'altra revisione perché c'avevo il carrello, capito? Io, allora, quando ho preso il carrello, io ho preso la macchina e il carrello. Così che sono andato lì con Madonna e dice, adesso domani mattina dice, vada con questi documenti alla motorizzazione. E Marini dice, vada, metta la seconda e cadere un po'. Così che la moglie mi ha mandato il numero della matricola della macchina. E mi ha detto, a posto. Sono cazzato e ti ho fatto la domanda della targa della targa, capisco, perché la targa me l'hanno mai dato, me l'hanno insegnato, capisco. La targa ripetitiva ma l'hanno dato, ecco. Ma un carrello, l'ha mai dato la targa solo in massa. Ehi, quello l'ho fatto anche io, la targa ripetitiva, ce l'ho quella lì, a Vigio non ne ha giocato, mi la gingalaggia arrivata, c'ha quella che avevo fatto io, non ne ho mai piazzato, tanto mi la vista di andare a avere un attesa. La revisione, poi non lo so tutto, io l'ho comprato dopo il carrello mio. Quando ho preso la macchina, non c'era gancio traino, l'ho comprato lui stesso il gancio traino, poi mi hanno mandato da lì a fare la revisione per il gancio traino, a alla motorizzazione, l'abbinamento del gancio traino alla macchina, e l'hanno aggiunto sul libretto il numero del gancio traino, capito, vi scritto la portata che puoi trainare, eccetera eccetera, vi scritto. E poi una volta che ho comprato il carrello sono andato alla motorizzazione, ho rifatto i documenti, i versamenti, ho rifatto la revisione per abbinare il carrello a quel gancio traino che trainava la mia macchina, capito? Io ho fatto il collaudo quando ho preso il gancio traino a mettere nella macchina, ho fatto il collaudo del gancio, hai capito? Però il carrello fa la revisione a parte, fa, perché c'ha la targa sua il carrello. No, la macchina mia c'aveva la targa ripetitiva della macchina mia, infatti il mio carrello, come quello di Gian Maria, non lo puoi prestare a un altro, a meno che non ti procuri la targa a prova, allora lo puoi prestare a un altro. Perché? Perché c'è la targa ripetitiva della macchina che è abbinata a quel carrello. Infatti io non lo dava mai a nessuno, una volta l'avevo prestato a me e a poi abbiamo fatto una la targa della macchina che usava lui a trainarlo, un pezzo di gattone, non era norma di legge, ma che non lo affermo nessuno, se no devi fare, ci vuole la targa di prova, capito, per trainarla un'altra macchina. Allora, il carrello appendice non lo può usare altro nessuno, solo che tu, perché ce l'hai nel libretto della macchina, ce l'hai, hai capito? Lo sto dicendo, lo puoi usare solamente tu, non lo puoi dare né a tre, né a uno né all'altro, perché quello è abbinato a quella macchina e a quella targa. Aspetta che c'era un altro che stava entrando, avanti! Ciarbacchi, non sei scendi! Nodda, campanello, ding! Si attacca il carrello! Abbacchi, se li conviene a piantarli in campagna, che c'è il radio che va! No, è un microfono che non anda! Ciarbacchi! Ehi, ehi, è il microfono, stavo provando con le cose, la tavola! E non anda! Ah, tanto male, no! Buonasera a tutti, belli e brutti, si vuoi, Come stavo provando? Adesso voglio controllare dove si scarica la batteria. A chi lo tratti con cimbo di vacca, bacchi, boh! Cosa c'è, grazie a te? Siamo lavorati. Bacchi, buonasera, grazie per il bello. Oh, buonasera, chi è? Luca. Eia, sempre io. Anda bene, mela. Avanti ancora, vai. Sono rientrato, avanti Gio Mari. Ehi, salutiamo a Bacchi, con la buonasera. Bacchi, tu devi morire a moglie che sono in sagap, la valavega funziona. Maledetto, forse visto. Piano piano, già sistemiamo tutto. Vai, vai. Allora ragazzi, forse questi grazie adesso. Io quando ando a pigliare l'appuntamento, dico, ma il carrello pure deve attaccare. Se mi dice che sì, distribuito. A chi non l'ha mai revisionato. E quando l'ho pigliata, la macchina, era un carrello, ma ha posto là una targa di cassone. Visto domani mattina vado alla motorizzazione con questi documenti e si fa fare la targa ripetitiva. Oh, non mi ha detto altro, dalla bocca io, non l'ho mai revisionato in 15 anni. Boh. No, tu quando vai a fare la protezione del carrello, della macchina, per fare la revisione, chiedi, devi sentire cosa dirigi. Cazzo, ma vedi il libretto che faccio il guasto strano, che non mi ha domandato mai, visto che io non dice abbiamo mai, cazzo, da chi non si revisionava lo carrellino, boh. E to, Tore, vabbè, Tore fa un carrello Mannu e per cui carreggia cosa e in un gommone o una macca e per cui è tutto un altro discorso, ma però ma lo che lo gioco si molto buon carrellino. Ah non solo, un carrello mio paga, l'assicurazione è rubullo. Io però, ma io pago tutti di assicurazione e basta, butto il bacco ma lo carrello io, tu lo paghi bacchi e paravacca, ma io sai che no, noi non ne paghiamo bullo, l'assicurazione paghi di più. Oh, perché c'ha la targa sua, c'ha la targa sua il carrello, oltre a avere la targa ripetitiva, c'ha la targa sua. Tu però, ma io ho la targa ripetitiva e basta, tu quel carrello lo puoi dare a chiunque, lo puoi dare, noi perché non lo possiamo dare a nessuno, solo la macchina mia può camminare quel carrello. Sì, infatti, solo con la macchina tua, no, invece io posso prestare il mio carrello, ci mettono un'altra attacca ripetitiva di Gattona, da Redu, e lo può usare, però sempre con il libretto in mano, lo devi prestare con il libretto. Perché se lo vai mangio cacchi sui. Ma è così, vai. È così, c'ha due targhe con il carrello, sì. Una di Franco e l'altra da Reggio, sì. È migliore qui sì, ma te. E dopo quasi lo prestavano carrello, eccetera. Ma noi non li possiamo prestare carrello, perché deve andare solo con la macchina sua. Capito? Io manco hai una persona estranea, non la posso dare, manco una macchina posso dare, ma già si posso dare un carrello buro. Si Arbacchi, riprenda! Arbacchi, José, c'è padre, sì! Grazie! Anche la mia era così, però io l'assicurazione ho detto no, qualche volta l'ha preso anche a mia figlia, dunque metta il nome di mia figlia anche, e così aveva fatto, anche se no, ma con macchina buriata, la doveva guidare solo io, chi c'ha macchina, io e mia figlia, Un attimo, no, i familiari, uno di famiglia gliela puoi dare la macchina, ma un estraneo non gliela puoi dare, se di famiglia la può prendere. Ma via dite, allora aggiungiamo anche sua figlia, in caso che la sua figlia che l'ha presa, però la gente di fuori non li buia la macchina, non ve li buia in freccia, con carrello o senza carrello. Aspetta che sta entrando Bacchigio, entra Bacchi. Non sei scendi. Bacchigio devi munire, sterco di Gavaggio che è il migliore come concime, Tore. Aspetta che provene, adesso lo bruva. Ciao Bacchi. Ma dov'è? Oppure non l'ha innaffiato? Ma chi? Non sei scendi, una cosa strana, non sei ciuffato ancora. Ti ha lappato tutto, Bacchino. Curi di Naghi, le fruttenne, che sa campagna, non si piglia la radio come te si tocca, che c'è Bacchino. Pone di due garotti in più, due gugumbari, due zucchitti. La radio ruba. È sicuro, stavo provando una cosa. No, che sono radio, sto parlando della figa, della riva, di tutti i tipi e caretaggi, ne so. Madre sarà Cavolafiori, non l'hai piantato. No, Cavolafiori, non Cavolafiori, è troppo santa. Non lo so, quello, proprietario, non ti permetti un baracchino, non so, come il mio, là, che è morto di fame. Il mio è di quelli da pensionati da 4 centesimi. Sì, se andano al riciclaggio da Marceggio, alla Brezza, vero Gian Maria? Beh, non lo so io, ma sai tu cosa fa? dopo magari può tentare fino alla fine, diglielo a Bacchì. Sicuro che è così, Giovanni, grazie Tina. La roba vecchia, Grazia, non si butta mai, tu sei vecchio, ti butta tua moglie, no, la ti tiene ancora. E un radio botto, un cappotto, tutto vedo da fatto, pure un buonissimo, ma rimane a un calduccio, e là già sigillato con un rotolo di scotch, e là già sintato in un baule. Le buste non sono baule, le buste, ma... Ebbene, no, non ho visto, non ho manco una messa, l'ho visto, se buste non sono baule, sono delle messa. E la messa li aveva giubata, la giubbette sigillate, e così non pensate poi tu buva la patalina a Trento, ma non fa fiago. Allora quando noi siamo io sarebbe il profumo della patalina, e siamo tornati da Trento nel 1914. E allora, chi si ballini bianchi rotondi mi, io so poco buzzinosi. Il sarumoccio ammazza! Ehi, questi bambini rotondi non sono in casa, ma fa fuori sopra i cubisti. Chi si è? Cosa? Mi dà giù i rigaracci, non li faccio i documenti, non gli rigaracci quindi sono due o tre. Ma che se no il bambino con un tempo crea quegli animaletti, creano quella polverina e nasce negli animaletti. Con chi si non nasce nulla? Quando apro il garaccio non deve respirare, se no sta tambaneggia. Al manco. Il discorso del mio vestimento non è buono, una bambina mi ha bocciata. E allora, bocci, bocci, burini. Infatti quando mi devo pulire, cacca roba la bocca, un'aria serina all'aria. Ho preso il marito, con la cosa una fatalina da graffiamo. Sore! Aspetta un attimo! E là c'è una bustina di un galaccio buco, che su galaccio la brucia mille volte, e là c'è una bustina sigillata ancora. Limone, limone, dove sia, che possibile sempre. Ah vai, sta cristalliera che c'è buccia, rubiana e rotolo. Se la c'è tutta una benzina a 30, umili, una patatina. Era una chieda, ho pulito il macro rubiana e rotolo. Ah, come un profumo, vera. Un profumo. Un attimino, mi devo assentare, ci sentiamo dopo. In due avete parlato, chi è che ha parlato sopra Graziano? Io e Bacchì, ci sentiamo dopo. Che vado a prendere la signora, ok, ci sentiamo dopo. Ehi, ancora dopo, ciao, buona questa Grecia. Ciao Maria, chi sei? Ehi, sono qua, vai tranquillo, ciao. Cosa che c'è da brontolare, Graziano, Bacchì? Ma sempre brontolenti! Una fatalina sta usando, Graziano, una fatalina! Per carità, ragazza, chi tu andrei a fare un cronista? Fai la domanda, Graziano, di chi ti piglia la Raimi? Ehi, la devo fare, la gente rilancia in Maluca, Luca, manicomio! E che facendo, c'è, Graziano? E allora? Io a ciala, detto non la usi la patalina. No, io uso petrolio. Sì, sì, sì, sì, e pure, a Rosaghi, cacca botta, ogni tanto vediate che c'è animaletti, gli escini, gli argentini. Con la patalina non ha di più visto. Pure l'armadio è una lì, ne ha divulgato la borsa, ne ha visto i documenti, ne ha divulgato due o tre in nata la borsa. Oh balle! Ha detto domani per il qui. Ha giubbato la borsa e la patalina. E non venne più manco uno. Non posso immaginare. Chi c'è a Rubiago? Morini, e la voi si intende il Viago, fuggini. Beh, ti dileguano. Avanti, sole. Come si è sentato, Luca? È andato a prendere la signora. No, capito, là. Allora, ripeta, Dio Mari. Cos'è, Luca? Era un po' disattento. Ha detto, riprendi. Te la grazia una cosa di senti. Cosa la dia a me? Dimmi, illumina io. Chi ha giudizio, chi l'ha fatta lì, la giubbotta ha buttato dentro una borsa, un invaggio di documenti. Ha chiuso lì, la giubiliata, e ha giudizio due o tre di chi c'è animaletti, chi ci va di lì. Chi è finito l'armadio, che butta da dietro e batte scoppa. Davi un bel quando proprio rimasto scoppa a legna. Mi ha giù tutti i cultivori e me l'ha giubbotta tutti in ceramica. Adesso non ho più visto. E a chi si sono rimuniti, ha visto questi tutti, si è arrabbiato e si sono rimuniti, capito? Ma io ci l'ha visto, vero Battista? No, chi hanno una giugata di fatti scoppa, ha già fatto una giumorto con un raccetto e poco gurri in me. E allora niente, mi ho messo il battiscopo in ceramica e non l'ho più visto. Qualche volta qualcuno lo sai da un laggio visti scendi, sta dietro il coprifilo della porta, in bagno. Ma gli ho spruzzato il DTT. E te ne pare. A voi le chiamate il capo, ma chi? Ma Sebastiano, non era mostrare che ci sono i pesciolini, si chiamano pesciolini, si chiamano così. Non era mostrare che si deve aggressire, se tu vuoi fare i rischi. Sai che fanno schifo, una lì, la giubbotta uno bel grassottello lì, in bagno, ero bussato in bagno, il giro rosso ero vecchio vicino alle mattonelle, vicino al coprifilo, balle, la giubbotta piano piano, fac, l'ha già matta, ora poi la maddù, poi non l'ha fatto il coprifilo e l'ha giubbottito a DTT. Ma cos'è che su che appena allunghito è? Sono lunghettini argentini io vi chiamo, ma che c'ho colore di l'argento? Se non lo becco non lo conosco. Ma chi, come si chiamano? Io non lo so quanto si chiama. Ah, li chiamano i pesciolini, li chiamano, no. Adesso sono pronto a uscire con i pesciolini. No, infatti se avete un problema, la forma dello pescio e la gola è più forcuta. Ma tu lo sai che chi ti buca nella roba, si mangia nella roba. Una di un contenitore che va via il ruso pazzo, per la roba, no, magliette, roba estiva. Quando ne ha giubilato, ma puni da barricchio, faccio dove si la la metà della roba che era tutta bucherellata. Si deve accendere l'anima agnata, è vero che c'è un capolo di animaletti, Trento. E mangia il bambino, tutto sulla ciappa di crugini. La roba la fate i brosoli, i tunnel, li stampano in parte. Tutte buccate le magliette, proprio si vedeva che erano immagnuzzate, tutte a forellini. E ce le ho buttate, e quindi erano i miei 36 contenitori di plastica. A chi vede prima rimunì la mia moglie, la lavata, la appeggiata e l'ha sentata di tutti i ghigli. E io poi ce l'ho messa su nel soffalso. E abbiate un diavolo si sono entrati, perché ci sono delle feritorie nel tappo, no? Per l'aria. Forse ci sono entrati dai vivi, ci avevano il vasto unito, ci hanno mangiato la roba. Tu si mangia tutto, vivi nei fermi dei tagli, nei vostri scopi, nei tuoi figli, nei garage in della roba, secondo di casa di umida è pieno. No, lei, nel garage già ci ho messo la nappattalina, non me ne ha fatti nulla. A me mi fanno schifo quegli animali. Non si vuole mostri, siamo amaretti, bisogna distruggerli. Ma sei prostato il suo prodotto, che è un prodotto apposta, e non si attacca nulla. Io conosco la raffattalina, la buona di mamma in casa l'ha sempre idratata. Furo i labbianchi di mie figlie, di mie giureti. Quando ripigliava la biancheria, dalle cibunia la nappattalina in mezzo, proprio apposta ma non arruinare la biancheria. Però non vi acqua, stata mai reggia. Vabbè, una volta che è chiuso già non si sente, una volta che da buoni la capi uno si la lava, però no, non te la arruineggiano. Chi c'è le malette si mangiano i cantupe, tutto mangiano. Non l'avevo mai visto, Pinocchio, mai. No. che mi dì il bagno, ogni tanto specialmente quando noi veniamo la faccia da bagno, si mancarevano. Qualche volta non vi ci sono animali cironghi sopra l'eva la fighetti. Chi ci sono non vi ci sono in bagno? Chi ci sono? Si nascondono anche dietro il coprifile delle porte. Vero Bacchi? Coprifili, poi ti scoppa, mobili, se tu metti il mobile molto appoggiato al muro, quando lo sposti è pieno di essi animaletti. E dove? E tu il mobile non hai l'aria dietro, quando hai sull'armadio è staccato da 1, 2, 3 centimetri. Se invece lo fai toccare il muro, si riempie di quegli animaletti. Già lo so, no, ma io l'armadio già lo sposto sempre, punto di piede in terra, lo vado in scoppa, subito da in bacio e ne rischio, quando mi acchineggio, ne lo sposto sempre io, ma moglie dice non mi va dalle droghe, lo può, sa che non gli va, lo muro gli piede per respirare un mattese, e se non ve la bacio la dita, lo muro tende a seccarsi e poi si stacca dal mattone l'intona. Invece se lo rinfreschi, il muro rimane, faccia prepresa, rimane attaccato l'intonaco, capito? Grazie, sono la vera i baracchini, bisogna si mangia i buchi i baracchini, lo buca tutto. No, che sta di un bosco, una la fatalina, buono che vi dentro i cattoli. È calcolato, cioè se fosse anni riunito, anche per un bonistirolo, un buco dentro. Il bonistirolo è caldo, no? Ha di visto che anche ci ribiate un calore, e allora niente. È il solito, caldo bisogna i baracchini, tra il cazzo c'è una busta con un materiale in modo che non si attacchi la buffa, ma ci si è avvisato. No, io non so pazzo con qui su Zodiac, per 20 anni sopra so pazzo, anche lì noi, è una busta normale, così era un mezzo tutta scazzinata. Però non ne ho mai visto animaletti quando l'ho preso dal suo falso, che l'ha messo a tutta la roba e verso bravi. Non l'ho mai visto, li ho visti in bagno, in quella borsa dove c'ho i documenti, dentro l'armadio, proprio dove la borsa. E poi dove li ho visti? Ah, in cameretta di Ribizzini, a dare dall'armadio. Quando l'ha giputato va in bianchina. Era giusto solo qualcuno così e detto a faccia a bagno la frighetti e basta e anche forse fuori in terra però uno, due, non di più ma andiamo sul mamma e di vengo, capito? Anche quando vede niente fuggini subito, si accuano non hai compreso, ma è vero Bacchi, se ti sa così è poco gurri nei miei e poco sono veloci con la trappola vivono al buio, aumenta la luce per vedere se correndo. Ma così fate, ma chi? Alla luce fuggi, no? Sì, alla luce fuggi, ma la luce si vede. Tu magari entri in bagno, aumenta la gianna, accendi la luce, e si vede, passendi, si viene. E se non la fai bagno con una frustata in giro degli anni e via. Certo. E non sappiano, ma poi infatti ho detto, a me è detto, strano, ma da un dimestere che si cose fanno tradimento, ma ogni tanto li vengo uno, ma ora li vengo solo una fichente, qualcuno è capitato che la giovito, hai portato un beso, anche un beso sotto la lavandino, anche un beso è vero, e l'occhio l'occhio sarà sui centimetri, non di più. Erano un centimetro e mezzo, due, piccolini. Poi tu, gli hanno i denti arrivare alla cassa quando compri un baracchino per una bustina. Chi sa quando me li dai? Quella è una bustina che mettono per assorbire l'umidità. Ah, così, per amare mia, e forse no che lo fesse, grazie a quelli zappa, grazie a lui bonifero San Mario e la commessa che va a finire, lasciala aperto. No, sono sigillati, sono dentro la scatola, non entra, le bella sarrazza, e poi gli altri ce li ho nella cassa a panca, dentro una scatola di gaccioni. Però la notte ha ragione Marchisio, escono la notte al buio, tu quando accendi la luce in bagno e rivedi fuggini subito e fate dei bigliarovoli a siccarli, tu magari non te ne sei avvisato, non l'hai visto, ma gli avvisò. E anche nei cassetti, come ha detto Marchigia, è pure tra gli armadi simboni, puzzinosi. No, non ho capito nulla. No. Io ho mai tu sempre i cosi, prima è buon in mira pure l'ha mai tu. Grazie, per cui no, dentro al mare assolutamente nulla. No, se mi dici i gaffoni in bagno va bene. Ma per essere al Mario no, che come ci fai, no, non è possibile. Poi, perlomeno, so che non mi sono capito, almeno di mezza, sicché è già che noi continueremo sempre, per cui non mi so. Allora, lo più da voi è cinichissi, perlomeno. Sempre di casi vecchi, di casi nuovi non nasce mai visto, di casi che vi sono da un bene, non è così, Bacchi. Sì, infatti, i casi vecchi da Ciappani, senza fare i catarani e chi si dorme, e si pesciolini nei casi vecchi. E con la nuova costruzione ci sono tanti meno pennelli. No, Catalani vira via io da tantissimi anni fa a chiedere tra la cassa panca, sta giocata da un tarrazzo, o la cassa panca, quando si è barrata e arrivi da io su miniera di 3 miglia, c'era sottofondo in quella cassa panca della nonna di Paoletta, lo sappia da un iniziale di questi Catalani, la rotta li bizzicava 1, 2, 3, e lo sappia da un iniziale di... Là giù d'intanto l'ingresso i vivi, giù che scendono da sotto ai vivi, bassi geni. Ah, allora sei tu. La giubbotta era un terrazzo, la già becca, ha già stato appena lo sottofondo, ha già stato subito e si è ricuttata da un vacone, da un terrazzino, in carri, era piena. Non lo so poi un po' come vai, è già morto. No, io ho detto che c'è il vostro faro ora, ma è stato il cutaglioso, ma sai quante quindita? Niente, mi ultimamente quando avevo preso la lavatrice, l'ho sballata, l'ho piazzata e tutto in bagno, entro in bagno una notte e ti vengo una cadarana, oh balle, chi ce ne fa? Mezza madura, chi c'era la lavatrice? Ha giocato la lavatrice e la giubbiera tutta canta di. Ma ha una boccetta se l'ha spruzzata, non ha giubito manco più una. Quella era dentro la lavatrice quando l'ho portata, compresa. Questo era un omaggio della ditta che ti ha dato la lavatrice, dice, l'emmo un omaggio che l'emmo. E beh, da grassottella era, niente da bicchita era, e te cosa mi fai tu? Che è sbagliato a far capento. Gravita era, che siamo dimmi, grazie. La ingravità da coraggio a bacca, se lo che dicendo che ci roba la bacca, va infatti capi stenni che anda a comprare che cosa, prima l'apri rubiane rotolo, la controllo tutta, pure se non venuta per il pruzzolo a testa lo dici, a chi ricappannone, chissà quanto inizio. Un attimo, grazie che sto qui dentro questa gente, dai, ci sentiamo domani eventualmente. Buon presumente, ci sentiamo. Ciao Bacchi, mi prendi tu, io chiudo. Ciao, a domani. Ciao, buongiorno, buona serata. Saluto la signora, a domani, ci concide. Grazie, avanti per i saluti a Gian Maria. Eia, ciao, buonanotte, a domani se coincide, ce la risentiamo, salutoni anche da parte di Rusi, ok? Mi fa altre 5 minuti e chiudo, così mi tanto ma che vale insulina e tutto. E beh, in campagna cosa hai fatto? Ve lo bene. Non c'è nulla, grazie. Insomma, la mattina ho fatto un po' di olive. Poi se mi è bloccato l'attrezzo da sbattere le olive e stasera lo stavo guardando e mi si sono rompito i piedi. Lo smonti e funziona, lo piatti e non funziona, poi si piatta l'interruttore e si incanta. Ci sarà qualche filo tocca, non tocca come lo piatti, magari lo stira e non tocca. Ah, è pensiero l'interruttore difettoso. Secondo come incalchi funziona, essendo no, capito? Ma domani mi si farò domani ferri, perché mi mancava una chiavetta per svuotare il pezzo del manico. E direi non vi in casa, i nostri in campagna non vengono via, vengono via degli di passaggio che non si viene a nulla. Domani te lo controlli, magari sarà ossidato, no, può essere. Ah, c'è una settimana e sta funzionando. Verso le 11, l'ho spento perché devo spostare il resti. Allora, attendito, non voglio funzionare, io ho pigliato tutto e ritorniamo alla casetta. A di lui sono comprato, l'ho già visto. Quando era visto funzionava e no, e cioè domani già la controllava. Ricambio l'interruttore e via. Lo guardi bene domani, prima già si vede se l'interruttore si è mezzo scassato. Lo controlli bene prima e poi vedi se funziona. Sì, no, con la terra io. Ma poteva funzionare, un'altra giornata. Ancora anche pochi alberi da fare, ma quindi che ogni albero inizierà 20 kg, 20 kg, dove noi assai. Metti la rete, la butti giù e la cogli via. Basta, in settimana finisco, se no non vado più dove ripeti domani. No, io quest'anno non ci sono sceso a raccogliere, me l'ha detto mia cognata, ha detto no, raccogli di nida, no, non mi interessa, già ce l'ho in luglio, e cosa mi nervoso, no, fatti i livi, no, quando mi cucio un muriccio, chi da me che si faccia a buglia, fa un altro anno io mi bacia. No, io pure non ce l'hanno passato, a buglia, io, ma... un poco di verdone non fa sempre male averlo. Vabbè, già ce l'ho io, ma cosa, non sono ingordo, no, la gente va a tiro giù, pigliati giù, non me ne fotti nulla. Quando rubino all'altro anno, fra due anni, si ne giocano una cosa, se non me lo cuppareggio. Basta, no, i figli freddi, inginucciati, chi viene, no. Larga giovani. Io poco la rete, il costureggio, la riccia di terra rimane in terra, non mi incino con gli nera, lo saranno. L'anno passato non abbiamo bella canna e poca. L'anno passato, quante volte mi sono rimaste 5-6 alberi di battiti. Fino all'arrivo al mattino. Ah, c'è stato uno con il figlio di campagna, dice, non vinnaggio, io dice, sono concessato poco l'arrivo. E tu mi fa una cosa, c'è il boccato di io, sì, dove è il costureggio. Vieni, il costureggio ti sei a bocchi. Allora mi dice, se mi aggiudi mi ha fatto di loro lo vengo. Ah, ti ha regalo ti devo aggiudare. Oh, mamma mi fumi. Che pità, per essere regalenni, a puttare su Cina e vuoi aggiudarlo. E dici vuoi andare da... No, è rimasta lì via. È rimasta in terra, ne farà da in terra, ne farà da una cucca. Dopo è giunto, io non ho giù la cucca. Se ti ne dico, fai lì, la biglia, non ti voglio nulla, se mi accogli, te la mattinesi e via. No, se mi aggiudi, se ti aggiudo non esisti più. Capita, non sono per essere regalenni, affascina, lui dove è, pure aggiudare. Ma aggiudare te se ne raccoglio, me la mazzo ne giù, non ha giù compreso. non la siamo abbandonata fino a farvi a Bristiglia con il lusso, ormai dei giorni dei contenitori non via in pieni, non vi ha più lungo, questo prezzo bene, ti mi accoglie e ti ha buchi. No, se mi danno loro tu, vabbè, siamo a nulla. E allora sta tranquillo, io qua non ti rilogo e arrivo in terra. Ma mezzo gabuga. Vabbè, basti, adesso chiudo, là. Ciao, buona cena, buon proseguimento. Fate bacione ai bambini, ce la risentiamo. Ciao, a domani, se coincide. Ciao a chi è in ascolto. Ehi, ciao Graziano, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere. Saluta la signora, a domani, che tutto va bene. Buona serata ancora, Graziano, ciao. Ciao, ciao.